forza! In diretta dagli studi di Radio Centrale 97.5 a Termini Imerese, Andrea Massaro e Antonio Panzica, da tre stagioni, presentano L'Onda in Onda! Eccoci arrivati, buongiorno, buonasera, bentornati a tutti, come vedete sempre... Ci mancava buonanotte. Andrea è molto simpatico, come disse una volta giurato, allora buon inizio di fine settimana, no, volevo dire, ed era lunedì, ricordiamolo, era lunedì mattina alle 7, e lui dava l'inizio di fine settimana. Ciao Andrea. Ciao Antonio. Ciao Totò. Ciao. Cioè, dovresti dire anche i nomi, visto che noi abbiamo salutato te per nome. Ma se già l'avevo annunciato prima, già la gente non ne può più. Infatti, però non è giusto che tu fai queste presentazioni sempre da solo, sei un cattivone. Lo so, ma io scelgo la musica di introduzione. No, capito, tu scegli la musica, ma tutti e due di sopra salutiamo. Non è giusto, esatto, fare questa cosa da fascista. Però senti, per favore, mi abbassi un po' la cuffia, che è abbastanza alta. Puoi abbassare tu. L'ho abbassata, eccola. Ok, grazie. Lui l'ha abbassata fisicamente. Okay, perfetto, grazie. E allora, bentornati dopo una settimana in cui non ci avete ascoltati e quindi siete stati sicuramente molto più felici. Andrea ha deciso di non caricare le puntate dell'Onda in Onda in streaming. Ancora no. Podcast. In podcast, vabbè, ma le troverete presto. Ricordiamo a tutti appunto il blog dove potete ascoltare le nostre puntate in streaming, che è blogspot.com/onda in onda. Sì. E inoltre saranno caricate anche sul dasarozzo.it. Ah, ecco, ricordiamo, anzi annunciamo, perché forse non l'abbiamo ancora fatto, del dasarozzo.it. Ha riaperto un sito che è stato per un periodo una piccola istituzione termitana, il www.dasarozzo.it. Anzi, veniteci a trovare, troverete dei post, diciamo, con un livello di quoziente intellettivo simile al nostro. Sì. No, diciamo che se fai la sottrazione dei nostri quozienti intellettivi ottieni quello che è pubblicato sul dasarozzo. Inoltre, perfetto, vi invitiamo tutti quanti a seguirci su Facebook, nel profilo Facebook dell'Onda in Onda, facebook.com/ondainonda. Sì, o chiamarci, a telefonarci qui se volete intervenire in diretta, anche perché è bello interagire con voi anche vocalmente, quindi chiamate lo 091 811 0089. Ovviamente se siete in autostrada, mi raccomando, non usate l'auricolare. Come non usate l'auricolare? Sì, mi va di fare prendere la multa a qualcuno. Ma perché non è giusto? La tolta l'hanno fatta a me, adesso. Vabbè, c'è il viva voce, voleva dire questo. Sì, esatto, volevo dire proprio quello. Perché poi capita che il telefonino si mette in posti strani. Insomma, il viva voce. Guarda, io non so cosa fai tu quando chiami, però. Ma sai quando passa, sai quando dici: oh, scusami, cara, c'è la polizia! E intanto la cara in mezzo alle pelotas, diciamo, e la cara non sa di trovarsi in quei luoghi, lì dove non batte il sole. Allora Andrea, cosa è successo in questa settimana? Tantissime cose. Sì. Bin Laden è morto nuovamente. Ah, è morto di nuovo Bin Laden, attenzione. Sì. Ma tu l'hai visto il filmato in cui lui, in teoria lui, è a casa, anzi la foto, e sta cambiando canale? Cioè, secondo me è il padre è di Osama, sì. Ma secondo me non è lui, tra l'altro. Ma poi Obama ha detto che non voleva diffondere il video appunto di Bin Laden, dell'uccisione di Bin Laden, come io ho deciso di non diffondere il video in cui scopo con Jessica Alba. Ah, quindi tu dici che vuoi forse sottilmente dirci che non esiste nessun omicidio. Ma tu sei un complottista. Ma perché mi spingi? Non lo perché sei un complottista. Ah, a proposito, appunto, per chi volesse vedere Antonio che mi spinge, vi invitiamo tutti a sintonizzare sul sito www.radiocentrale.it. potete ascoltare la puntata in diretta. Ascolterare. Ci mancava Totò, un bel ascolterare. Un bel ascolterare ci mancava. Va bene, allora, prima di parlare di quello che è successo in questa settimana e di vedere chi ci verrà a trovare oggi, ancora abbiamo la scaletta in definizione perché non tutti forse potranno rispondere, ci ascoltiamo un bel pezzo, direi, partire belli sparati. Sì, ci ascoltiamo subito Pink con So What per voi da Radio Centrale. Ma sei malato? I'm still a rock star. I got my rock moves and I don't need you. fight. Eccoci tornati in diretta dopo questo ascolto di So What di Pink, una ragazza per bene, devo dire. Io la vedo, lei sai, ha avuto una crisi mistica. Come? Come? Aspetta, vorrei capire. Cioè, tutto io ho detto, Pink ha avuto una crisi mistica, com'è? Cioè, un lobotomizzato che entra in radio. Devo dire come? Cioè, perché? Perché? Perché? Perché si trovava in un convento e ha pensato di, come dire, di frequentarlo. In che senso? Compa, non posso approfondire. Ah, ok. Però voleva frequentarlo, sai. Ho capito, la monaca di Monza, te la ricordi? Ah, di sì, manzoniana sì, memoria. Esatto. Orcia, dobbiamo parlare tra l'altro di un altro Manzoni. Sì, no, oggi vorremmo aprire una finestra sull'arte moderna. Toto, tu cosa sai di arte moderna? Tutto. Tutto? Ah, dai. Allora, dici chi è. No, partiamo da prima. Dimmi il nome di un famosissimo futurista, artista. Un artista futurista, ma guarda, cadi proprio a fagiolo. Sta andando su Google, ragazzi. No, no, fermo, ti do un aiuto. È raffigurata una sua opera anche dietro una moneta da 20 centesimi di euro. Assolutamente, proprio lo stavo per ragazzi, per vabbè. Parliamo di Umberto Boccioni comunque quando parlavo. Che sai una cosa e pare che sai un... No, vabbè, non so. Ti offende. Sei anche offeso. C'è lui da tre. Guarda, ma poi va spostando le finestre, tra un po' non vediamo neanche più la scaletta. Spettatori, no, voi ascoltatori, voi dovreste vedere quello che accade nel computer. Ma tu non devi dire ascoltatori, poveretti che state lì a ascoltare la radio. Beh, per effetti, sbaglio. In effetti chi ti ascolta l'ha fatto per sbaglio. Sì, per la fa per sbaglio, però poi se sente Totò cambia direttamente stazione. Che magari uno non sbaglia. La trasmissione più ascoltata della settimana. Attenzione, sì, termini in altri Madonna, cerda. Vabbè, Madonna. Noi faremo cerda in altri cerda. Un venderemo cannoli ai primi 10 ascoltatori e tu fallirai miseramente. No, non ho niente da fallire perché non vendo niente. Comunque, caro, tu conosci Manzoni? E certo, non puoi scriverlo su Google. Certo che conosco Manzoni. Chi è Manzoni? Come chi è Manzoni? Come chi è il Manzoni? Padre della letteratura italiana. Poi? Quel Manzoni. Ma noi parliamo di arte moderna. Parliamo di Piero Manzoni. Ah, tu parli del bue grande, cioè il Manzoni. Oddio. Ragazzi, dopo questa... C'è l'artista della cacca. Appunto. Quello della merda di artista. Della merda di artista, scusa, non l'hai mai studiata la merda di artista? Ma la studi tu, perché tu stai studiando di merda. Cioè, di si fare... sta incartando in un modo assurdo pur di non far vedere la sua ignoranza. Ma qual è il problema? Non ho capito. Non possiamo essere tuttologi. È stato questo lancio. Si parlava. Che lei ipotizzavamo che Manzoni abbia letto i Prezzi Sposi e detto: mamma mia, che cagata! Abbia fatto cugino dell'Alessandro Manzoni l'abbia raccolta in un barattolo perché è famosissima. Lui però non la conosceva e quindi non può goderne con noi. Ma noi avremmo forse il primo ospite di questa sera che, a quanto pare, con i nostri potentissimi mezzi, invece di farlo parlare telefonicamente, è riuscito a raggiungerci qui in studio, ed è quindi un piacere, un onore dare ancora una volta per il quarto mercoledì di fila, se non sbaglio, ce lo dirà lui, al grandissimo, unico, incommensurabile. Per favore, prepara il sottofondo dell'internazionale. Ogni volta lui non coglie. Ma no, mia santa, di nuovo qua è Totò. Ma non ha suonato nemmeno il cinema, dove è passato? L'ho fatto entrare io, tra l'altro c'è la porta aperta. Volevo segnalarti la porta aperta. Così, comunicazione interna di servizio. Ed è così che con l'internazionale comunista accogliamo un ragazzo che farà veramente della via Gluck, ma veramente strada. Buonasera a tutti. Eccolo, è già entrato ed è già al microfono. C'è neanche l'apertura della porta, è invisibile. Buonasera, io ciao Casper. Vi ringrazio nuovamente per avermi invitato in questa trasmissione. No, non ti abbiamo invitato. No, comunque ti vorrei dire che ti sei autoinvitato tu per il quarto mercoledì. Vorrei ricordare insomma che l'etere è una cosa pubblica e noi per il pubblico insomma noi vogliamo. Il tuo etere sarà una cosa pubblica. Io ho un etere privato, tu assolutamente sì. Noi vi ringraziamo di questo spazio che concedete appunto. Ma non lo concediamo, lo rubi. Collettivo Giancarlo Mattello, appunto sono fidelli. Ma chi è Giancarlo Mattello? Ma lo rubi tu. Chi è Giancarlo Mattello? Ricordiamolo, appunto avete ragione. Ricordiamo. No, non c'è bisogno di ricordare. Fidelio Cusimano del collettivo Giancarlo Mattello. Perfetto, perfetto. Vuoi ricordare di dove sei? Ma Giancarlo Mattello, ci lo fai conoscere? Ma non è Mattello, è Mattello. Mattello, Metello. Ci lo fai conoscere? Con una T sarebbe un'altra cosa. Giancarlo Mattello, dedicato appunto il nostro collettivo. Sì, ma chi era questo Giancarlo Mattello? Era un compagno comunista che è stato ucciso. Compagno di classe forse, sì, di suo padre, il banco, che è stato ucciso in Spagna da poliziotti tedeschi. In Spagna da poliziotti e magari passava un camionista inglese che teneva la destra ed era ubriaco. Comunque no, veramente no, perché gli inglesi come si sa sono tutti comunisti. Comunque non ha un grande senso dell'humor. Comunisti. Gli inglesi comunisti. Sì, vabbè, neanche voi, se chi sono i Tories. Voi non lo sapete, ma come non sapete che la Basilicata non esiste, non sapete neanche che gli inglesi sono comunisti. È un complotto. Io vorrei che chiamasse adesso il regista di Basilicata, no, cost to cost. Qua ci vuole la polizia. No? Scusa, ma lui ha detto che gli inglesi sono comunisti. Vogliamo un attimo chiamare, se abbiamo il numero, Carlo, quel Carlo. Volete chiamare Carlo? Carlo, io, quel Carlo. Ma io prima principe. Vorrei parlarvi del nostro. Del nostro appunto cineforum che facciamo nel nostro ridentissimo paese. Ma non ci interessa. Totò, scusa, puoi cercare il numero di Carlo d'Inghilterra? Ah, va bene. Vai, vai, vai. Solo, intanto io vi parlo. Appena partirà la musica della corona inglese, mi sa, di God Save the Queen. Intanto io vi parlo appunto di quello che noi stiamo facendo come collettivo Giancarlo Mattello a Regalcioffoli. Mi dispiace che è stato tolto l'internazionale, ma... Attenzione. Attenzione. Che succede? Attenzione. No! Fidelio, io sono emozionato. Siamo riusciti a chiamare lui. Anche noi siamo emozionati perché finalmente parlerà un compagno storico della sinistra mondiale. Vediamo, allora facciamoli parlare insieme. Vediamo cosa succede. Carlo, chiamalo tu Totò. Io vado di là a fare un attimo una cosa in bagno. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto. Buonasera, compagno. Good night, good night, mister. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Principe Carlo. La notte musicale. Notte. Ah, notte. Buonanotte. The God said. Sì. Save the Queen. The Queen, però, non the, yeah, the King. Queen. Non the King. The Queen. Drag queen. Ma the Queen, not a King. But I'm not the King. Appunto, tu puoi scuidarsi, nel senso lo puoi dire. Principe, this dirty, questo ragazzo così sporco, nel senso che it's very difficult che that you divent king, capisci? Very difficult. Picchiato per culo. Your figlio, sì. Ah, president. My son William and that William bigger, probability is high. Yeah. Ma yeah. You high five. No. The note. Sì, sì. Please, who is this guy? Questo sporco ragazzo. No, that, ma non si lascia. You are Comunist and to the death. Principe compagno Carlo, noi siamo. Come io sono veramente un onorato. Who is Principe compagno Carlo? Prince of Galles. I'm holy. Prince Carlo. Cazzo dici questo? Lei è un principe compagno, sappiamo che gli inglesi appunto sono tutti comunisti e It's noi del collettivo true. Giancarlo Mattello ci impegniamo per diffondere la voce del comunismo in Inghilterra. No, anche. No, shit, leave this music. I don't believe I'm not communist. Ma, I'm not communist. Princess. Fuck, princess. Princess significa principe. I go to Pippa. I want to go to Pippa. No, she... Pippa no. No, Pippa, fa rilassare, me non ti dico solo. No, noi del collettivo Giancarlo Mattello pensiamo che il principe stia parlando di Pippa, la sorella della sposa. Non ha capito proprio niente invece. No, in realtà sta di altro tipo di Pippa con five fingers versus one. It's a great match. Che schifo, guarda, abbiamo battuto un bellissimo tutti. Match come quello che fu appunto battuto dall'armata rossa nella piazza rossa. Scusi, what is the film you will transmit to your people? Sì, appunto, noi del collettivo Giancarlo Mattano vogliamo parlare di questo film che facciamo. Andrea, aspetta, Carlo se n'è andato. Scusa Fidelio, puoi dirci il nome del film e andare, perché c'è allora, molto le palle, il vai. Film di cui parliamo oggi nel Cireforum. Abbassa, se no non si sente il film. Del Cireforum di Regal Cioffli, appunto, dove noi facciamo The Queen, sì. Dove noi facciamo appunto dei bellissimi film. Va bene, il nome del film si chiamerà, è un film di Arnoldo Montatori. Arnoldo Montatori. Come Montatori? Perché Montatori chi è? Perché io conosco Arnoldo Montatori. È il suo cognome, lo so, perché ma quello è un usurpatore del vero cognome di questo regista famosissimo, perché è un operaio che appunto certo, Montatori, certo. Totò, come non c'era mai. È metalmeccanico, come non esatto, prima, della FIOM del 1908. E la lui FIOM non c'era. Esisteva, è sempre un complotto insieme a quello della Basilicata. La Basilicata non esiste, la FIOM esisteva già nel 1908. Buttatelo fuori, ed basta! Un attimo, io vorrei dire appunto questo. Fagli dire il titolo e lo butto fuori. Questo film riprende, è una parafrasi, è una visione in chiave moderna di quello che disse Piero Calamandrei, appunto storico costituzionalista, a Kesselring. Disse: l'avrai camerata Kesselring, se fosse stato fatto ai giorni d'oggi le avrebbe detto ti esplodesse la bobina. Va bene, salutiamo Fidelio Cusimano e ci ascoltiamo un altro gran pezzo. Scanca Nancy con You Save Me. Mi hai salvato, c'è bisogno di tradurlo. Vabbè, si capisce. Carlo se n'è andato. Vabbè. I've been looking through my mirror with somebody else's eyes, then you broke me down. You fixed my bloodstained crown. I've been looking through my window at somebody else's world. You saved me from myself. When everyone left me, you loved me, and no one else. You came and saved me. You saved me from myself. And they saved me. anche Nancy con You Save Me, il nuovo singolo, insomma, del loro nuovo album. L'incontro tra Fidelio Cusimano e Carlo, che ne pensi, Totò? È stato cazzi, ma un dice... sottofondo non ce l'abbiamo, niente. Come dicono Lil Greg. Sì, i, come dicono i greci. Lil Greg, ah, il grande capo. 610, ma come, io sono un grande fan di 610. Ma vabbè, vabbè. Allora, niente, vediamo come chi niente. Ci sta. No, no, niente è brutto da dire, in effetti. Chi è che ci Attenzione. Strange così. Non lo sento. Da un po' che questo significa che tra poco avremo in linea il presidente della Repubblica Italiana. Metto in piedi presidente della Repubblica Italiana. Anch'io. Io non posso perché continuo a parlare. Perché sei un piedi. Comunista. Esatto. Sei un comunista. Vediamo se Giorgio è in linea. Pronto. Presidente? Pronto. Che Giorgio è in linea. So Giorgio, ormai lui è ospite fisso. Senti. Fisso ci sarà tua sorella e la mamma. Lui arriva sempre incazzato. Ah, ma no, non sono incazzato. Avevo potere di far uscire delle qualità che non sapevo di avere. Addirittura, ovvero? Buonasera a tutti. Buonasera. Presidente, buonasera intanto, insomma. Salutiamo, non facciamo i maleducati. Ma tutto, presidente, mi scusi se la interrompo immediatamente. Prego, presidente. Prego, però devo chiederle una cosa, però mi sta sulla... Vieni avanti, cretino, fai la tua domanda. Andrea, con te sto parlando. Citazionista. No, dicevo. Allora qua gliene faccio pure un'altra quando sono in mezzo a voi. Voi siete praticamente tutti gli uomini del presidente. Vabbè. Mamma mia, va bene. Questa è più berlusconiana che insomma. Ma comunque, presidente Napolitano. Avete notizie da un anno, non lo vedo da qualche giorno. Quello è il problema. Lei non guarda i telegiornali. Oltretutto, TG1 è stato multato perché lo fa vedere troppo anche il nostro premier. Hanno multato pure mia moglie l'altra sera. Cioè, eccesso di velocità. Sì, era dentro la villa che correva a 30 all'ora. Esatto. Ci stavano i bambini con le biciclette, l'hanno multato. Nella sua villa? No. Ah, in una villa? Era in una villa, ma è proprio cretino. No, dicevo, stava in una villa pubblica, siccome una macchina non può circolare, le famigliamo Clio, l'hanno multata subito. È normale. No, presidente, le chiedevo, dico, ha sentito, non so se ha sentito, le hanno riferito, no, che la berlusconata ultima di ieri, e sono due fondamentalmente, che i comunisti non si lavano, e lei è un ex comunista, e che praticamente Berlusconi dice che vuole toglierle un po' di potere a lei per prenderselo lui. Che ne pensa sulla non lavaggio? Sul cattivo lavaggio, diciamo. Questo che silenzio non è di produttivo. Diciamo che allora era il lontano 1542 e io stavo sulle montagne. Come lei stava il 1500? Guarda, 400-500 anni. Io tengo 532 anni. Azza. Sì, tipo Nostradamus. Ho capito. Mi chiamano Nostro Georgius. E se penso a me, io riuscivo a lavarmi pure sfregandomi la roccia sul braccio. Cioè, facevo una specie di peeling. È uno smerigliatore. Bravissimo. Cioè, strappavo la pelle proprio dalla parte da. Come serpente. Bravissimo. Facevo la muta. E con Bertini facevate grooming come le scimmie. Con Bertini facevamo i petoni, cioè avevamo gare nazionali, ragazzi, i partigiani che fanno scorreggi sono una cosa incredibile. Allora dico, se pensa a loro, eravamo tutte persone che pur non avendo queste grandi possibilità economiche, una lavata ci andavamo, pure la pietra strappavamo la pelle. Certo. Ma se no, ma oltretutto si diceva, no, che una volta che entrava in politica, entrava povero, usciva ancora più povero. Sì. Ora diciamo che entrano paraculo e se ne escono pezzi di merda. Presidente, è un po' un sunto della lotta. Che mi sembra in linea con la sua ultima dichiarazione, ha detto la lotta politica non deve essere guerra perenne. Io che voleva dire con non questo? Capisco perché lei l'ha letto in un accento che era la metà veneziana, no, e la metà emiliana. Però scusami Andrea, prima volevo su questa cosa del lavaggio. No, del lavaggio vorrei aggiungere una cosa. Ho visto in webcam Fidelio. Sì. Fidelio, sì. Credo che lui sia la testimonianza viva e vegeta. E puzzolente, diciamo. Che quella puzza purtroppo circonda. È una anche se Bersani ha detto noi non ci laviamo perché siamo più puliti di quelli che Bersani dovrebbe restare a fare solo canzoni, a me piace molto Giudizio Universale. Quello che dice, mi fa cantare un attimo, troppo cerebrale per capire che si può star bene senza andare al colle. Addirittura sì. Così canta. Sì, me la canto sempre quando sono in vacanza e non mi va di stare al Quirinale. Ho capito, ci sono i corazzieri sempre pronti a pungolarmi nel sedere, grande vastasone. Insomma, e questo insomma, Berlusconi vuole i suoi poteri. Ecco, allora andiamo al secondo punto. Io vorrei sintetizzare tutto perché tengo premura. No, per carità, con una sola, un solo gesto. Qual è il gesto? è solo, dico, io, sapete che vi dico, di quello che ha detto Berlusconi che vuole il mio potere? Sì, no. Ma come? Ma no. Va bene, salutiamo il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e adesso ascoltiamo i Green Day con Horseshoes and Hand Grenades. Grenades, yeah. Horseshoes and Hand Grenades. Rientriamo immediatamente dopo questo bellissimo pezzo, perché nel frattempo ci è raggiunto un ospite da una regione che noi, insomma, che è molto vicina a noi. Prima abbiamo avuto il presidente Napolitano, che appunto viene dalla Campania. Scendiamo un po' più al sud e abbiamo, ci è venuto a trovare un ospite che viene appunto dalla Calabria. Lui è Tony Scopelliti, un ex medico nutrizionista che ci spiegherà una bellissima ricetta. Benvenuto. Non c'è un personaggio. Per favore, regia, mi abbassate. Dottor Scopelliti, benvenuto. Buonasera. Entusiasmo iniziale. Buonasera. È bello essere qua. Grazie, dottor Scopelliti. Come mai ci è venuto a trovare proprio dalla Calabria? Aspetta che picchiare la bombola rossiccia. Se non ci arrivo a metà puntata. Abbiamo notato. dottor Scopellini, medico nutrizionista, ex, no, medico, ex medico nutrizionista. Che è successo? Che è successo? Ha laureato dove? In quella università, mi scusi. L'università di Torre Tramutata Tarandellata. Però c'è anche l'università e mai saletti. Ah, che a me non mi piace. Quindi Tor Vergata non poteva andare a fare a Roma. No, perché, perché c'erano solo, certo, tutti, io ne volevo appena quattro. Ho capito. Allora, ex medico nutrizionista, come mai? Aspetta, mi chiamare pure un pianto, che succede? Che cosa è successo per sapere mie? Sì, certo. È una cosa tremenda. Ma quando è successo così? Io se sento la tarantella non riesco a raccontare questo fatto. Regia, abbassatemi un po' la tarantella. Si può mettere una canzone un poco più che entra nell'atmosfera di questo problema grave? Mettimi L'Urruscio Telumare. No, che è pugliese, non c'entra niente. L'Urruscio Telumare? Sì. Però c'è una T. C'è una, sai, T. Che mi piace. Può mettere una cosa con 4 T. Tipo Tutta la notte sei bella. Ballano. Chi tu chiede, no? Perché? Ma lo so, ce n'erano tre. Vabbè, sì, ok, comunque allora ci parli. Ma che mi fa cascare? Ex medico nutrizionista, come mai? Ma chi è sto pezzo in sottofondo? Dottor Scopelliti, sì, per favore, sia serio. Ex medico nutrizionista, come mai? Silenzio. Niente, io... Che è successo? Io ero un medico nutrizionista. Sì, vedevano i miei cristiani che volevano perdere peso. Sì. Quindi che volevano passare di 150... a 132. Ah, non avevo molte aspettative, immagino. No, perché c'erano tipo, chissà, cioè, i campionati di devoratori di hamburger che non accettavano sopra i 132. Ah, certo, quindi perché loro... 18 kg picchiavano per mangiare l'hamburger. Io, immagino che ha avuto una clientela vastissima. Sì, più che altro una clientela molto larga. Più che va, ah, certo, era vastissima, sì, come numero e molto larga come, va, come stazza. Certo. Niente, un giorno uno io ci prescrisse per perdere 5 kg. Ci disse, lei la cosa che ha fare più veloce tutte è mangiare tanta buona antuia. Addirittura. Sì, l'antuia è famosa. Cioè, perché dici tu, è formaggio, avesse a fare male. No, antuia. Non è, no, non è formaggio. Che cos'è antuia? È una carne. Se uno sa lei che non ti sa di me. Ah, vabbè, niente, è un modo di dire. Formaggio noi intendiamo un'altra cosa. Ora vi spiego. Allora. Sì. C'è molta carne, pancetta. È molto usciato, piccante. Arrepichiamo, ciao, sì, sincero, scusate. Allora, l'anduia che non è formaggio. Insomma, ci rette st'anduia doc. Sì. Mi pareva toc. In realtà doc stava per di origine, che cazzo ne sa, non ne viene. Ah. E tu meschino repasente, mi morirò tra le razze. Addirittura. E da allora io mollai la mia professione medica. E ora che mi sono E adesso, ora sì che ci sta la tarandella. Ho detto, io mi devo proporre di fare l'anduia doc. E io vado in tutte le radio del pianeta. Penso, sono andato pure a Cosenza. Ma non ci sono tie a Cosenza. 50 chilometri. Ma soprattutto a Catanzaro. A Catanzaro. E a Canicattì. A Canicattì in Sicilia. Ora nel tour in Sicilia passerai pure nel doc. E adesso io, ma Regalcioffoli diceva pure, per favore, metta uno, metta Fidelio Cusumano, che mi comincia a dire, io mi chiamo Fidelio Cusumano, io non capisco più niente, non ce ne manco una T. Fidelio Cusumano, che nome è? No, Tony Scopellite. Certo, Tony Scopellite. Allora io sono qua per la mia missione di dare la ricetta dell'anduia doc. È pronto a scrivere? Certo. Inviti gli ascoltatori pure, infatti, a scrivere. Invitiamo tutti gli ascoltatori a scrivere la, prendete, ricetta dell'anduia doc. E penna non c'ha la T, però prendetela lo stesso. Se avesse, vabbè, la T. Se avesse la T, insomma, venderebbe pure una Mont Blanc. Va bene, andiamo avanti. Allora, anduia doc. La composizione prevede crema, no, però non c'ha la T. Vabbè, e andiamo. Tema: 100 grammi contengono principi attivi. Porca la puttana. Ritagli e tagli, c'è un giambastro nel ritagli, ci vuole un altro T per dare il suo corpo di grazia. Ritagli e tagli di sotto pancia, testa, spalla e coscia porchis. Addirittura. Minchia, ma chi è sto porchis? Ma chi è, latino? E genitivo? Lardo, pancetta e grasso porchis. Arrenata volta. C'è l'asterisco in porchis. Tu vuote. Perché un porchis sarà chissà che cosa surgelato al ristorante. No. Non mettono l'asterisco. E com'è? Ma è sua la ricetta. Contrada Grotticelle, Capo Vaticano. C'è pure la predizione del Papa per questa. No. Ma come? Lei conosce benissimo Capo Vaticano, la località turistica di mare. Assolutamente no, ma le voglio dire di sì, se no ci resta male. Comunque, poi ci sono i recipienti. I recipienti? No, eccipienti. Eccipienti. No, perché però nel recipiente ci mette chi tocca sta. Ah, gli eccipienti. E c'è il sale fino. ad libitum. Ad libitum. Sì, quindi perché ti fa scatenare la libido. Ah, ne ha libido. No, no, è scelta. Ah, mi spaccai la gamba. Quanto imparaggio, dottore. Sì, scusa, non mi chiami dottore. No, no, no, no. Allora, torniamo a noi. Controindicazione. Vabbè, sono banale. Ma per l'andone, è una ricetta. Biliare. Sì, niente di che. Poi, steatosi epatica. Chi è sta steatosi epatica? Obesità, vabbè, se ne fotte, poi uno va in palestra. Satiriasi e ninfomania. Addirittura. Rischio orgia sadomaso. Ma stavo proprio ne scritto qua. Io non mi ricordavo, è scritto qua. E se è scritto no, ma il prodotto non dovrà essere somministrato nei pazienti di sotto di 6 anni età, se non rischiano di trombarsi magari le infermiere dell'ospedale dei bambini. Cosa il pazzo, io me ne va. Va bene, salutiamo Tony Scopelliti. Portiamolo via in barella, grazie ai barellieri. Grazie Tony Scopelliti per questa bellissima ricetta dell'anduia. E adesso ci ascoltiamo un nuovo pezzo, ovvero fammi vedere il foglio, lo scelgo Caparezza, io. Caparezza, cose che non capisco. Cose che non capisco, che abbiamo ascoltato già la scorsa settimana. Ve la rispariamo, buon ascolto. Sempre sì. Benvenuti problema. Ad una nuova puntata di Chi vuole essere lasciato in pace. Abbiamo un nuovo concorrente stasera e direi di iniziare subito con le domande. Domanda d'ecologia. Via quel sorriso da crusty clown, dammi solo la risposta più drastica sulla differenza tra bottiglie di plastica in acqua ed acqua nelle bottiglie di plastica. Sport. Campioni del mondo 2006 e l'anno dopo mondiali di pallavolo, nazionale sul podio, perché non si fa festa? Perché se ne parla così poco? Cultura. Gomorra bestseller, si moltiplica come un porno sul server. Che serve dire che fa affari se ti fa gli affari tuoi da sempre? Dici che devo andare a lavorare. Soldi facili, devi andare a lavorare. Ma come, giochi le lotterie per fare grana dal nulla? Mi fai proprio tu la morale. Ci sono cose che non capisco e a cui nessuno dà la minima importanza. E quando faccio una domanda mi rispondono con frasi di circostanza. Tipo tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi, non te ne fare più. Quesito di politica. Da un'indagine si parla meno di Stato più della sua immagine. Ma che diamine, passare da Italia ad Italia 1 è davvero così facile? Storia. Risorgimento italiano, non fare il baro, chiamo il notaro. Perché non dirlo, il tema dell'inno non è di Mameli, è di Novaro. Ore 13 a tavola, riuniti davanti al TG come gli amici all'agora. Notizie del principe di Corona, di Draghi e del Cavaliere, cos'è? Una favola. E funerali di Stato a che servono? I militari in missione, chi servono? E i caduti sul lavoro, per loro nemmeno un cero con il santo patrono. Ma sii serio? Si concentri, ha poco tempo a disposizione. Le ricordo che se la sua azienda sta fallendo può chiedere l'aiuto del denaro pubblico. Mi dispiace, ha perso. Arrivederci. Ci sono cose che non capisco e a cui nessuno dà la minima importanza. E quando faccio una domanda mi rispondono con frasi di circostanza. Tipo tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi, non te ne farò più. Ti fai troppi problemi. Ed eccoci, tornati in diretta dopo l'ascolto di Caparezza con cose che non capisco. E intanto facciamo la piccola marchetta agli nostri amici di Positive Vibration, che se non sbaglio faranno una puntata su già Bob sono Marley. I nastri di partenza. Ebbè, oggi ricorre l'anniversario della scomparsa morte, del grandissimo, sì. Del grandissimo Bob Marley, che ha fatto sognare tante generazioni e continua a farlo anche adesso. Ci rincresce dare una notizia che non è molto positiva: c'è stato un forte sisma purtroppo nel sud della Spagna proprio poche ore fa, almeno 7 morti si contano al un'ora fa, in realtà. Un'ora fa c'è stato due scosse, una 4.5 e la seconda della scala Richter 5.3. Quindi ci dispiace. E oggi ci sono sei scosse, di cui la più alta del 3,2 della scala Richter sull'Etna. Ah, quindi c'è questa faglia. foglia, c'è questa foglia che però sì, mi sa che è quella, perché sud della Spagna passa al Mediterraneo, zona stretto di Gibilterra. Io comunque vorrei fare i complimenti alla Moratti per come si è comportata con Pisapia al faccia a faccia, calunniandolo palesemente. Ma Pisapia ha fatto subito denuncia. Sì, ha appunto fatto denuncia per calunnia, ma noi vogliamo fare i nostri complimenti alla Moratti perché è veramente una sportiva e diciamo che come un pugile ormai colpisce da colpi bassi perché non sa più che fare, si è sparata sui piedi. E facciamo, vabbè, lo possiamo dire noi che siamo di qua, insomma, cioè, par condicio zero. Auguri a Pisapia. Auguri a Pisapia, speriamo che si insomma riesca a salire. Io direi auguri a chi ha veramente intenzione di governare bene. Assolutamente, perché, insomma, sì. Però anche noi gli auguri al candidato anche all'altro candidato, quello della lista Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle, giusto? Appunto. E non alla Moratti. Non alla Moratti. Comunque, io voglio dire un'altra cosa, magari non me ne può fregare di meno, ma io ieri sera ero allo stadio per Palermo Milan ed è stato emozionante. Devo dire che quando è finita la partita ed è comparso sui due schermi che ormai sono nelle due curve, no? Sia la nord che la sud. Panzica su, che tu hai detto evviva. È bello comunque quando Andrea ciao papà, radio, ciao mamma, io sto venendo per cena, ci vediamo tra 10 minuti. È stato bello quando è comparso, siamo in finale, scriviamo la storia, Roma 29 maggio 2011, e proprio in questi minuti tra l'altro è appena iniziato la seconda semifinale Roma Inter, che ci dirà chi sarà la squadra che dovremo scontrare per poter alzare questo trofeo che per due volte abbiamo già sfiorato, l'ultima 32 anni fa, e chissà che il 29 maggio, come quando 7 anni fa siamo tornati in Serie A, non ci porti fortuna. Va bene, allora, dato che abbiamo pochi minuti, siamo quasi in chiusura, facciamo un altro grande pezzo. Un pezzo, vi invitiamo a non sintonizzarvi sulle Iene, che tanto ve lo potete vedere in streaming poi su internet anche stanotte, e continuate a ascoltare Radio Centrale con gli amici, appunto, con gli amici di Positive Vibration. Intanto c'è la partita, Totò ha appena messo la partita. Se ci togli la partita così non ce la perdiamo. Come stanno? 0-0? 0-0, 3 minuti 0-0, e 15 secondi del primo tempo. Scusa, e allora vediamo Bruno Pizzullo come la racconterebbe questa cosa qua. Scusa, vediamo. Vediamo un po'. Allora, spettatori, vediamo che tra pochi minuti... Ah no, è già iniziata, scusate, mi trovo sempre un poco indietro. Andiamo ad attaccare sulla destra il nostro Lisa Razzù. Scusate, sono strabico. Come Lisa Razzù? Sono passati dei anni. Lisa Razzù in pensione. Comunque, ci avete pensato che... Allora, non so se avete pensato che mi è cambiata la voce. Non riesco più. Stiamo notando. Va bene, dato Abbas, ci ascoltiamo il George Baker Selection con Little Green Bag. Piccolo zaino verde. Piccola borsa verde. Borsetta verde. Borsetta verde. Se ce la metti, dottor, è proprio quella dopo. Sì, bravo, no, quella, qual è? Quella giù. Questa? Non devo lasciare la Roma. Attenzione, vediamo. Ci sta. È quasi a tempo. Molto in ritardo, pericoloso e scivolato. Soprattutto sicurezza al momento dell'azione. Vediamo l'assist. L'assist di Tieto. È ovvio che la palla era a metà. Ha cercato Pazzini di allungarlo. Anche se è stato costretto con la carriera gamba. Grande rammarico che vi diciamo che purtroppo anche questa puntata volge al termine. Io mi sono sono divertito, tu? Anche io mi sono divertito, speriamo che vi siete divertiti anche voi ascoltando le nostre cazzate. Io no. Tu no, vabbè, lo sappiamo. Tu non ce ne frega un cazzo. Danco, non ce ne frega proprio niente. Cencio, io vengo dal cencio, mi sono mangiato quattro panini con la porchetta a parolaccia. Sì, abbiamo notato, va bene. Allora vi salutiamo tutti e invitiamo a seguirci il prossimo mercoledì, sempre dalle 7:30 alle 9. Oggi abbiamo fatto un po' più tardi perché c'erano gli amici che hanno suonato dal vivo. Va bene, e vi invitiamo sempre tutti a raggiungerci sul nostro profilo facebook.com/ondeonda, ascoltare il podcast che metteremo finalmente. Va bene, ma tu ne devi mettere tre, metteremo tutte le tre puntate su blogspot.com/ondeonda e vi invitiamo a continuare l'ascolto su Radio Centrale con gli amici di Positive Vibration e a seguire feedback. Come ha detto la canzone di Manuel Castro, sempre in quel posto. In tutti i sensi. Ragazzi, ciao. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao.